Do il benvenuto a Michelangelo Merculi in arte Naip ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, ciao a tutti. Allora Naip, va bene se ti chiamo così? Va benissimo, va bene. Partiamo magari dalla prima domanda che forse ti hanno già posto, ma perché proprio Naip come nome? Ma Naip era fondamentalmente, sarebbe nessun artista in particolare, il significato di questo acronimo. Ed è una roba che scrivevo sui banchi di scuola quando andavo a scuola sempre, quindi insomma divenne quasi un mio obiettivo quello di fare prima o poi un progetto musicale con questo nome, lato, diciamo, dal punto di vista solo della trovata del nome oppure da un punto di vista solo estetico, ma anche concettuale, perché poi alla fine questo nessun artista in particolare sento mi rappresenti molto come definizione, quindi questo è il motivo. Ok, adesso mi viene spontaneo chiederti, quindi la tua passione per la musica è nata dal nome oppure è la tua passione per la musica che poi ha creato nessun artista in particolare? Questo non lo so, è un po' tipo l'uovo e la gallina. Esatto. Io penso di aver iniziato ad ascoltare musica contemporaneamente, sì, lentamente dentro di me è nato comunque questo nessun artista in particolare, o comunque questa visione, questa voglia, questa specie di cosa. Quindi poi le due cose si sono unite, la musica e il concetto. Poi comunque nessun artista in particolare mi piace anche perché mi libera anche dal dover fare unicamente solo musica, che poi di fatto faccio musica ma faccio tante cose, quindi è perfetto, ecco, senza volerlo e invece volendolo, è un po' strano. Sì, sei un artista poliedrico, proprio come i tanti strumenti che suoni, e volevo chiederti appunto, c'è uno strumento in particolare di cui non puoi fare a meno? Ma penso la chitarra sia lo strumento di cui sento l'assenza, mi peserebbe l'assenza ogni volta, perché lo strumento con cui ho iniziato poi a suonare è stato il primo che ho imparato, penso insieme alla batteria quello che suono meglio, ma al di là di quello che suono meglio è proprio quello con cui sento una particolare simbiosi. Quindi ti dico la chitarra. Presto farai uno spettacolo al laboratorio di San Filippo Neri. Quali sono i temi che affronterai in particolare? La conferenza, poi l'incontro sarà incentrato sulla vita, o in questo caso la mia vita, dopo l'esperienza del talent show. Quindi immagino ci saranno varie domande da parte del giornalista su questo, e io sarò la prima volta che affronto pubblicamente questo discorso, infatti penso sia una cosa interessante anche per quel che ne uscirà, perché penso sia un argomento trattato pochissime volte, almeno io non ho mai visto particolari molti articoli dedicati a questo argomento. Quindi sarà incentrato su questo, suonerò dei brani e basta, poi il resto vediamo cosa succede. Perfetto, io Naip ti ringrazio e ti auguro una buona serata, speriamo che tutte e tutti vengano a vedere il tuo spettacolo per conoscerti meglio e conoscere in maniera molto approfondita, ecco, il tuo percorso. Grazie a voi, spero che ci saranno delle persone e che sarà una piacevole serata nonostante Sanremo incombente. Speriamo. Ti ringrazio. Va bene, ciao, grazie mille. Buona serata.